Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, una settimana fa abbiamo inaugurato la stagione di Palla Spicchi. Naturalmente vicino a me c'è come sempre Flavio Suardi. Ciao Flavio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Gigi Borghi in redazione, Filippo Reggi in regia. E dove stava seduto una settimana fa il coach della Nazionale Italiana di Basket, Charlie Recalcati, oggi c'è una penna fine illustre della nostra pallacanestro come Werder Pedrazzi del Corriere della Sera. Ciao Werder. Ciao, buongiorno a tutti i vostri telespettatori. Ciao Carlo. Radioascoltatori. Certo. E ci chiamano, 800 24 00 24, il numero verde. Benissimo, siamo prontissimi. Certo, la sedia è impegnativa e vedremo di onorare la presenza del Charlie di settimana scorsa. A proposito di sedie scomode, quella di Meneghin, commissario della Feder Pallacanestro, che tutti hanno paragonato al Titanic, come la valuti? Non c'è possibilità alternativa nella condizione in cui siamo se non quella di valutarla in maniera estremamente positiva. Si è sempre parlato dell'uomo giusto al posto giusto e naturalmente Dino o Super Dino, come vogliamo chiamarlo, per quanto riguarda immagine, passato, storia e anche grinta, credo che sia l'uomo appropriato per fare da traghettatore, come lui ha detto, di sentirsi semplicemente un caronte. Semmai il problema sta proprio in due ordini di fattori: uno, che ha già manifestato Meneghin l'intenzione di non continuare in questa avventura, cioè di non candidarsi poi alle elezioni di marzo per la presidenza, e l'altra sta nel fatto che poi investe l'atteggiamento culturale debole di tutto il movimento, che dell'ipocrisia a parole. Tutti hanno così incensato questa nomina, hanno fatto dichiarazioni di grande benvenuto, anche perché Carlo, Flavio, mi sembra che Meneghin sia un nome e una persona indiscutibile. Poi, e però, dietro le quinte già incominciano ad aleggiare, sussurra e grida, ma è un giocatore, rimarrà pur sempre un giocatore, non è attagliato a lui, alla sua mole, al suo fisico, quello del politico. E finisco per il momento qua con la domanda: ma c'è bisogno di un politico per ristrutturare e rilanciare l'immagine del basket? Io ti dico, ma non è ora di finirla con i politici per ricostruire la pallacanestro? Poi parliamo anche delle modalità di elezione del presidente federale, perché del prossimo presidente federale, perché sono in discussione. Magari facciamo anche l'identikit. Io e Flavio un'idea ce l'abbiamo, era quel signore che era seduto sulla tua seggiola una settimana fa, no Flavio? Sì, in realtà alla domanda che faceva Werder, di solito la risposta potrebbe già essere no, visto che abbiamo una decina d'anni di esperienza con un politico vero, cioè di Maifredi si può dire tutto tranne che non conoscesse in maniera addirittura maniacale tutte le pieghe delle cose politiche della federazione, e molto probabilmente non ci sarà, io non so se tu sei d'accordo, non ci sarà bisogno di un politico tout court, ma ci sarà bisogno di qualcuno che un po' queste cose le conosca, e io non so quanto un uomo solo di campo possa conoscerle. Questa è un'obiezione che mi viene in mente così adesso parlandone. Chiaro è che Meneghin, dopo 10 anni di dirigenza a livello di settore squadre nazionali, probabilmente l'avrebbe avuto un po' di esperienza. Sì, però anche sulle modalità di elezione possiamo discutere, perché si è detto, insomma, leggiamo ovunque dalla Gazzetta dello Sport, che ha fatto un'inchiesta a Superbasket con le sue proposte, ovunque, a Corriere della Sera, tutti i giornali, leggiamo ovunque le ricette, quello che serve. Si tratta di capire innanzitutto, secondo me e preliminarmente, come si elegge il presidente federale. Con i comitati regionali andiamo avanti così? Vabbè, è l'unico tema sul quale mi ero preparato venendo qua, ma prima volevo rispondere volevo rispondere all'obiezione di Flavio, che un po' riassume un senso comune ed è la critica di fondo comune. Ma un presidente federale, Flavio, può circondarsi di qualche tecnico? Io onestamente e personalmente faccio una distinzione nella gestione di qualsiasi, sia che sia lì un'impresa, sia che sia un'associazione, un'organizzazione. Faccio la distinzione fra chi debba avere la sensibilità, debba avere l'esperienza, debba avere la capacità per la sua figura e il carisma di imporre una direzione e poi i tecnici che devono trovare gli strumenti per realizzare. Insomma, è come l'ingegnere progettista della Ferrari e il tecnico che mette a punto il motore, le sospensioni e le cose. La questione sollevata invece da Carlo è la questione centrale, perché nella prassi le idee contano molto, vanno discusse, vanno approfondite, ma poi sono i meccanismi che fanno andare una macchina. E qui investiamo il discorso generale. Oggi, modestissimo mio parere personale, nella pallacanestro la pallacanestro è diventata il dominio della tuttologia. Tutti sono molto bravi, girano queste etichette. Io spesso mi chiedo: quello è bravissimo, ma a fare che? Ognuno fa tutto e non c'è invece una specificità di compiti. Io credo, provocatoriamente, che per esempio i comitati regionali, apro la parentesi, che sono l'istituzione che detiene i voti e che è l'unico depositario poi dell'elezione del presidente federale, che i comitati provinciali abbiano per compito specifico quello di essere la cinghia di trasmissione delle idee del movimento e di promuovere sul territorio la pallacanestro. Tradotto in parole povere, la loro maggiore attività, la loro maggiore preoccupazione, l'interesse maggiore dovrebbe essere quello della promozione del basket giovanile, cioè delle basi, ivi compreso il discorso della formazione di tecnici adeguati, certo, che insegnino la pallacanestro a giocarla e non a fare infrazioni di passi, come mi è capitato di vedere andando ad assistere a molti allenamenti di giovanili, anche di allenatori quotati. E questo è un altro discorso. Io credo che la palla a spicchi, come dite voi, sia effettivamente anche per forma e anche per reticolo, rappresenti un po' un piccolo mondo con tutti i guai. Il problema è che bisogna partire da una profonda riforma del meccanismo elettorale. Ti faccio un esempio: se noi dessimo ai comitati regionali il 40% dei voti e poi un 20% ai dirigenti, un 20% ai giocatori, un 20% agli arbitri, che fanno il 60%, non avremmo poi un sistema di elezione più democratico? Non potrebbe passare oggi anche alla presidenza una figura, e ho in mente dei nomi ma non li faccio perché naturalmente poi cadrei nella trappola di chi dice: fai quei nomi perché sono tuoi amici. No, sono miei amici perché sono persone capaci e intelligenti, ma questo in Italia non lo capisce nessuno. Poi, se volete, ve li faccio, sì, e c'è tra questi anche recalcati, sì. Ovviamente non sarebbe un sistema più democratico. È certo che opporrebbero subito il discorso: ma non possono andare a votare tutti i giocatori? No, deve portare, devono andare tutte le componenti della società basket. Ci vorrebbero, Carlo, volendo, delle primarie, che non è mica difficile organizzarle in un palazzetto quando c'è, capisci? No, chiaro, ma il nodo è questo. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto, discorso che facevi tu, ma su tutte le ricette che leggi o che senti, no? C'è quella della riforma dei campionati, c'è quella dei settori giovanili che devono essere affidati a persone capaci. Sono tutte cose che lo stesso Recalcati ha detto una settimana fa a questi microfoni, che ci stiamo raccontando, che tutti ci auguriamo Meneghin cominci ad impostare. Però è chiaro che ci vuole un presidente forte e poi non più il paradosso di un presidente che non può scegliersi il vicepresidente. Certo. Infatti, nei miei piccoli appunti che sono solo mentali e data la confusione mentale poi spesso me li dimentico anche, la situazione ideale per il futuro sarebbe quella di un triumvirato con Meneghin presidente o forse qualcun altro presidente e Meneghin come area operativa e Charlie Recalcati come area tecnica e diciamo di promozione, vista la sua conoscenza del territorio, la sua esperienza e poi anche tecnicamente la capacità di valutare se un ragazzo a 17 anni è futuribile o meno. Ma ripeto, il problema l'avevi centrato inizialmente, non è detto che un presidente di comitato regionale o il presidente di comitato regionale della Lombardia piuttosto che del Veneto, tanto per non fare nomi di chi sta conducendo questa battaglia, non è detto che non debba essere il presidente della FIP, però non è obbligatorio. È solo questo forse la cosa, se ne ha le qualità, se ne ha l'esperienza, perché no? Ma non che sia sempre obbligato, altrimenti altro che sistema bulgaro. Ecco, quello che io mi auguro, e non so se siete d'accordo, è questo. Noi la riforma dei campionati, la valorizzazione della pallacanestro giovanile, tutti questi argomenti che sono ritornati alla ribalta in questi giorni e non soltanto settimana scorsa con Recalcati i nostri microfoni, sono argomenti che io mi ricordo leggevo da ragazzino sulle colonne di Superbasket o altri giornali o altre fonti di informazioni. La pallacanestro italiana sono anni che deve farle queste cose, quindi secondo me la cosa che bisogna augurarsi è che queste cose in un qualche modo vengano fatte, perché sennò andiamo avanti a parlarne, andiamo sempre avanti a parlarne, ma la domanda è: c'è modo di farle queste cose? Perché è evidente che se in tutti questi anni non le abbiamo fatte, in qualche motivo ci sarà anche. Adesso però parliamone con calma dopo il traffico che è in arrivo. Io ridò i nostri contatti: 800 24 00 24, numero verde, messaggi sms 349 238 6666. Ne ho già alcuni. Perché a livello regolamentare e normativo tre rinvii della decisione sull'ammissione o meno di Napoli e Capodorlando alla Serie A1? È legittima la domanda di Jack, di Giacomo, non credo sia Galanda, magari sono un omonimo. Però è legittima la domanda, perché siamo ancora qui a pettinare le bambole, no, su queste questioni. Napoli e Capodorlando, che non hanno pagato quello che dovevano pagare come le altre hanno fatto, siamo ancora qui a capire se devono partecipare alla A1 o non devono partecipare alla Serie A, non devono partecipare alla Serie A. Serie A che doveva partire domani e che invece non parte. Quando parte? Settimana prossima? Ancora non si sa. Ecco che torniamo dunque, dobbiamo agli ascoltatori una risposta, ascoltatori che intanto stanno chiamando 800 24 00 24 e soprattutto stanno scrivendo cose anche molto, molto sensate e molto intelligenti. Gli allenatori, come questa ad esempio, gli allenatori devono essere bravi nelle giovanili, però se vengono pagati una miseria è difficile, per esempio gli assistenti di Serie A non guadagnano nulla. Oppure sarò nostalgico, ma chi sono i nuovi Benatti, Brumatti, Gaglieri, allenatore alla Pasino, alla Faina, mi mancano quei maestri, ve ne sono di nuovi, Lele da Cesena. Werther, dobbiamo agli ascoltatori una risposta. La risposta è abbastanza complessa. La domanda, scusa. Andiamo con ordine. Mai, e con dei fatti, non abbiamo mai mandato tre giocatori in tre anni consecutivi tra le prime scelte dell'NBA. Ad esempio mi ricollego al discorso di una nazionale forte, e non, per fare una nazionale forte non ce ne vogliono 12 da NBA, ne bastano 2 o 3 e con un completamento che sia dignitoso. Allora il problema è perché ci vanno e perché non ci vanno, e non sto parlando di Bagnani e Belinelli, anche se io non giustifico il fatto che per loro sarà il prossimo un anno decisivo nella NBA e quindi hanno bisogno di lavorare, perché a me piace cercare di leggere tra le righe i significati, voglio dire, i significati che ci sono profondi. Allora, cosa vuol dire? Che in Italia siamo con l'anello al naso, non siamo in grado di dare un'adeguata preparazione tecnica o madonna. Direi che abbiamo una suoneria. E adesso, e quindi... andiamo a spegnere al volo. E no, stavamo parlando il discorso che faceva lui, che credo adesso completerà, è questo. Ci sono giocatori di non primissimo piano del basket italiano, che non penso sia un segreto di Stato. E se ci sono i segreti di Stato, apriamo gli archivi. Perché ci sono giocatori, e sono 16, che quest'estate hanno detto ai mercati: preferisco andare in vacanza, non me la sento di impegnare 2 mesi, ho un problema fisico, devo ristabilirmi, devo riprendermi, devo riposare, eccetera eccetera. E anche, 16 sono tanti. E anche giocatori eccellenti che dal movimento italiano hanno raccolto tantissimo, che il basket in Italia ha cambiato loro la vita, e diciamo che fanno parte anche della miglior società, veramente della struttura organizzativa che oggi è rimasta l'unica, giustamente premiata anche con il best executive di Minucci, parlo di Siena, ma lo stesso Stonruk ha rifiutato, nonostante che Recalcati l'abbia chiamato e che poteva essere un giocatore che cambiava gli equilibri proprio per le sue caratteristiche. Ma vedi, è come il nodo gordiano di Alessandro Magno, è una congerie di cause ed effetto, e semmai ci ritorniamo. E la seconda parte della domanda del nostro amico riguardava, se non sbaglio, l'SMS era la questione decisionale su Napoli Capodorlando, che ormai rasenta veramente il paradosso. La questione decisionale, lui parlava anche di allenatori e di queste cose, ed è il discorso della formazione. Poi ciascuno di noi può essere d'accordo se i nomi che il nostro ascoltatore ha citato sono condivisibili o se ce ne sono di altri. Io faccio un esempio e dico due cose. Sicuramente allenatori come Dan Peterson, per quanto riguarda la gestione, la motivazione del gruppo, ma che va al di là della semplice motivazione, l'identificazione del giocatore con la maglia e la squadra, che questo è importante perché lo specifico è uno sport di squadra. Oppure allenatori come Sandro Gamba, per la semplificazione, ognuno per la semplificazione di quello che era diciamo l'atteggiamento tecnico-tattico per avere una dimensione internazionale del basket. Lo semplifico: difesa e contropiede, però difesa ha portato dei concetti specifici che ancora oggi vengono studiati e sono disattesi. Oppure allenatori come Riccardo Sales, compianto Riccardo, che ha portato la lettura di quel principio per cui io allenatore sono solo, voi siete 12, sono io che devo trovare 12 chiavi per trattarvi tutti uguali. Non è la burocrazia che vi tratto tutti allo stesso modo, ma devo avere 12 chiavi per aprire il vostro cervello, e che ha portato un profondo studio delle dinamiche psicologiche e dell'individuo e del gruppo. E per finire, a Boša Tanjević, che ha insegnato la durezza, ma che era susseguente e solo conseguente all'atteggiamento per cui, se gli davano in squadra un asino che ragliava, per lui quell'asino che ragliava e lo allenava come ribò. Ecco, era conseguente alla lealtà. Perché la durezza l'accetti se si sposa con la lealtà, e Boša Tanjević è per fortuna la sintesi. Non ho assolutamente niente da aggiungere, perché questo era l'aspetto psicologico, abbiamo detto aspetto tecnico, e la lealtà nei rapporti. È perfetta la tua sintesi. Ecco, allora, adesso noi, con le debite eccezioni, e sapete tutti di chi si parla, di Ettore Messina, che ha studiato a fondo queste cose, di Sergio Scariolo, ma anche, se volete, di Matteo Bonicioli, è possibile che un movimento mandi ad allenare in B2 l'allenatore premiato migliore allenatore dell'anno? Io non lo so perché, non lo voglio neanche sapere, ma sarà un sintomo di malessere, sì o no? Ecco, allora, allenatori di questo tipo non ce ne sono più, non che non ce ne siano più, che non ci siano le eccezioni classiche che confermano la regola, ma parliamo di scuola. Oggi gli allenatori di scuola seguono, ecco perché ti parlavo di concatenazione di causa ed effetto, seguono tutta una serie di altri sistemi che segue la federazione, che segue la Lega, che seguono gli arbitri. Ovvero, quando trovo un buon posto, se ho un buon procuratore, se ho una buona relazione, se ho una buona... allora la sintesi la faccio anch'io. Sono 20 anni che manca totalmente un concetto, la meritocrazia. Sì, e poi aggiungiamo il fatto che, ad esempio, poi diamo la parola agli ascoltatori, i primi sono toscani, Maurizio da Firenze, Marco da Empoli, parliamo subito con loro. Aggiungo al discorso che facevi tu, insomma, abbiamo guardato per mille stupidaggini anche agli Stati Uniti, guardiamo a un concetto di base negli Stati Uniti. John Wooden, Dean Smith, Bobby Knight sono dei semidei, a loro dai il compito di far crescere la pallacanestro americana, di insegnare la pallacanestro americana a questi signori anziani, a questi venerabili, dai il compito di allevare e cerchi di mandare tutti i migliori alla loro scuola. Sandro Gamba non allena, non entra fattivamente la pallacanestro da anni, Dan Peterson, Boschettani invece per fortuna no. Insomma, i nomi che ha fatto Vertra sono tutti validi, ma ne possiamo tirare fuori Taurisano, per Taurisano. Esempio. Insomma, perché non li impegniamo a lavorare sui giovani? Maurizio da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Io Prego. Volevo dire due cose. Io ho 20 anni, ho fatto l'arbitro pallacanestro, ora faccio il commissario degli arbitri e penso che il nostro movimento sia andato decadendo perché primo per colpa della televisione, cioè in chiaro ormai non si vede più niente di pallacanestro. Secondo, perché penso, come diceva, da una parte che la dirigenza non si è rinnovata. Quando ho iniziato io ad arbitrare, per esempio, c'era un certo tipo di dirigenza e tuttora c'è la stessa dirigenza, cioè non c'è stato un ricambio generazionale. Ecco. E questo penso anche a livello tecnico invece, molte realtà, molte piccole società anche della periferia non hanno la stessa, diciamo, valenza tecnica, può avere Bologna o può avere Milano. Come settore giovanile, ecco, secondo me bisognerebbe concentrarsi proprio sulle periferie, ecco, sul movimento di periferia. Sì, il movimento di periferia che nelle ultime stagioni, peraltro, e per fortuna forse, ha rappresentato anche il midollo della nostra pallacanestro, perché ricordiamo Avellino, Montegranaro, eccetera, eccetera, sono storie, la stessa Capodorlando, sono storie freschissime di competenza, di sapienza cestistica. Prendiamo nota delle domande, sentiamo anche Marco da Empoli prima di fermarci un attimo tra esattamente 2 minuti. Marco. Sì, buongiorno. Mi ha un po' anticipato l'altro ascoltatore. Comunque, ecco, prendendo spunto dalla vostra domanda, c'è bisogno di un politico? Ecco, dico proprio di no, perché non solo nel campo della pallacanestro si vede i danni che sta facendo la politica, quindi credo proprio di no. Detto questo, ecco, mi piacerebbe, ecco, che venisse fatta un po' di pressione appunto sulla TV pubblica, perché venisse un po' più divulgato il basket, così come altri sport, il tennis, la pallavolo, cioè sport bellissimi che vengono schiacciati completamente dal fenomeno calcio o da altri fenomeni tipo, non so, Isola dei Famosi o altre trasmissioni che veramente credo che portino proprio alla massificazione della popolazione. Invece ci sarebbe proprio bisogno di una sana televisione che proponesse dello sport sano e diciamo più puro rispetto ad altre cose. Ecco, voglio sapere cosa ne pensate. Sì, glielo diciamo dopo che ci siamo fermati un attimo per le informazioni dei mercati finanziari. In linea di massima sì, quello televisivo può essere un problema, però poi se prendi un prodotto devi anche saperlo sfruttare. Faccio l'esempio del rugby di cui spesso parliamo. Adesso è tornato alla Rai, dopo essere stato a Sky, è tornato alla Rai, è sul satellite naturalmente e viene collocato in orari abbastanza improponibili. Ricordiamo tutti quando negli anni 80 la grande Milano di Dan Peterson giocava e vinceva le Coppe dei Campioni e andava in replica secondo tempo alle 2 di notte, quindi anche questo è un discorso da fare. Basket in chiaro, sì, però facciamolo bene. Ecco che torniamo, abbiamo già in linea un altro ascoltatore che è Giulio da Biella. Insomma, tanti tavoli aperti, compreso quello televisivo, sempre con noi Werther Pedrazzi, Corriere della Sera, oltre a Flavio Suardi, mio compagno di viaggio. Berta, da dove vogliamo ripartire prima di sentire Giulio? Ma ripartiamo geograficamente e nella maniera più logica, ripartiamo dalle periferie. L'ascoltatore che chiedeva una rivalutazione delle periferie ha perfettamente ragione, nel senso che se intendiamo per periferie la base del basket, d'altra parte mi sembra che sia una tautologia, una cosa insita. I giocatori non nascono, qualcuno anche sì, a Milano, a Roma, a Basile, l'ultimo perché ho qui un'immagine sotto, è nato a Ruvo di Puglia, che onestamente, e denuncio la mia ignoranza, se non fosse per il fatto che c'è nato Gianluca Basile, ben poco ne sapevo. Io penso che le periferie, non tanto come concetto geografico, ma come concetto, diciamo, sostanziale, vadano intesi come la base. E qui ritorniamo in uno dei grandi temi, quello dei settori giovanili, quello della valorizzazione dei giocatori italiani. Provo a lanciare una provocazione. Una volta, e ancora oggi, per quanto riguarda per esempio lo stile o le grandi case di moda o tutti quelli che sono i prodotti di elevato gusto, copiano l'Italia, e noi purtroppo per quanto riguarda il basket copiamo spesso l'America. Una delle cose che da sempre, da quando ho iniziato a fare questo lavoro, dunque dalla preistoria, mi ha colpito è che non riusciamo a copiare bene, cioè a tradurre e adattare. Il problema della valorizzazione dei giovani, io mi chiedo, mettiamoci e affrontiamo il discorso di cosa in concreto impedisce o quali sono le difficoltà per fare delle serie minori l'NCAA americana. Sì, come diceva, cioè, Recalcati settimana scorsa, facciamo un campionato dedicato eventualmente agli under 23, per che esempio. È già dare una è già mettere una sconfitta che per sua struttura un po' troppo arcaica la scuola italiana, nonostante i tentativi di riforme che sono come la tela di Penelope, fanno una cosa, poi la ridisfano, tolgono gli esami, adesso la rimettono, figurati, non hanno figure professionali per fare anche gli allenatori del basket, hanno palestre e le sprecano perché al pomeriggio sono chiuse la parentesi. Dato per scontata è accettata questa sconfitta che la scuola italiana non è oggi in grado di reggere quel ruolo, ma perché invece di fare questioni veramente nominalistiche, che la B1 adesso si chiama serie A dilettanti e la B2 serie B dilettanti, ad identificare e diciamo così a istituzionalizzare una frattura tra il vertice e tutto il resto del movimento. Una frattura che non deve essere una frattura, deve essere una differenza con regole diverse, certo. Ma deve essere, invece dovremmo avvalorare la continuità. E allora io mi dico, facciamo le quote di italiani che devono giocare in Serie A. E poi, se mi permettete, voglio fare una riflessione molto molto breve su questo discorso. No, facciamo le quote degli ultra 25enni che possono giocare nel campionato che oggi chiamano di A dilettanti. Tanti. Certo. E lì ci giocano fino a 23-24, stabiliscano loro. Io non voglio entrare nel dettaglio, ribaltiamo certe logiche. Sì, e poi io sono sempre dell'idea che invece la Serie A, in una prospettiva di ristrutturazione e di riforma, a quel punto liberalizzazione del mercato e gli italiani si guadagnano la loro pagnotta a prezzi di mercato. Ti dicevo, Carlo, che dopo parliamo di quello che deve avere regole diverse. E il discorso che, eccoci, io credo, e non voglio propormi come esempio perché sarebbe veramente presuntuoso, immodesto e tutto il resto di peggio che si può dire, però per chi mi conosce, sono pochissimi, e devo dire che io ho una formazione che ha il massimo rispetto per tutte le istituzioni, ivi comprese una delle istituzioni che oggi è tra le più tra le più, voglio dire, osteggiate e denigrate, parlo del sindacato, ma mi sembra assurdo, improponibile, che, parliamo di sport, un posto di lavoro in campo debba essere garantito per norma sindacale. È assurdo. Cioè, voi capite che per noi che siamo venuti su a pane sport e che abbiamo anche a volte, io da giovane in particolare, siamo stati insofferenti a certe regole che la cultura sportiva impone, e poi abbiamo capito, è una cosa abnorme, è una cosa assurda, è una cosa improponibile, cioè falsa tutta una serie di relazioni. Il posto, Ciccio, te lo conquisti. Certo, vieni giù dal Pero e hai i soldi giusti, anche perché quelli, non al doppio. Quelli buoni giocano e il campionato da un certo punto di vista lo dimostra. È una questione, l'abbiamo fatto tante volte questo discorso, che l'italiano anche dal punto di vista economico deve tornare ad avere un prezzo ragionevole che sia in linea con le aspettative con i costi del mercato, perché altrimenti non... Certo. Poi lavoriamo sugli extracomunitari e li riduciamoli pure, facciamo un paio bravi in Spagna, due extracomunitari e poi quattro giocatori eleggibili per la nazionale, perché questa storia dell'italiano di formazione è una delle perle del recente regime. Ma perché siamo bizantini? Perché certo. Facciamo le regole in modo che poi ciascuno le possa flettere, estendere, dilatare a proprio uso e consumo. Voglio chiarire che ognuno deve prendersi, proprio perché altrimenti non c'è dialogo. Io sarò sempre dalla parte dei giocatori ed è proprio per questo che credo di dover dire, di poter dire, e mi tocca di dire, che la GIBA sta sbagliando procedura, insomma. Sì, sì. Sono alti gli obiettivi. Avevamo Giulio da Biella, adesso non ce l'abbiamo, no, più. Parlando regole, noi facciamo le regole, le tiriamo e le strizziamo e poi facciamo giocare classici da passaportato, perché poi questo è anche il paradosso. Per forza, perché se le regole non sono chiare, poi prestano il fianco a delle gherminelle di quel tipo. Senti, Werther, io vorrei spostare un po' la prua della barca verso il campionato, che partirà forse chissà quando, aspettando le decisioni su Napoli e Capodorlando, e anche qui, vabbè, ce ne sarebbe da dire, no? Cioè, voglio dire, fossero aziende normali, ci sarebbero già delle immobili in vendita per il fallimento. Qui stiamo ancora discutendo se devono fare la Serie A o no. Sì, scusa se ti interrompo, però c'è una cosa che a me quantomeno inquieta. In queste ore è in corso l'assemblea di Lega. Io ho ancora sentito parlare di un campionato a 16 squadre, quindi senza Napoli e Capodorlando, col blocco delle retrocessioni. Ecco, secondo me questa è la maniera peggiore per far ripartire la pallacanestro, perché come si fa a pensare di bloccare le retrocessioni, quindi di far perdere totalmente interesse a un campionato, quando magari, non so, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, squadre che possono avere delle difficoltà economiche, quando sanno benissimo che la stagione non conta più niente, vendono i più bravi alle squadre che devono giocare per il titolo e perdono di 50 punti fino alla fine del campionato. Io non la capisco questa cosa. Negli ultimi anni la grande battaglia è stata per gli ultimi posti, per i playoff, perché sulle... Insomma, sono d'accordo in parte, non credo sarebbe un campionato totalmente falsato. Il problema è che sto campionato parta probabilmente, presumibilmente, auspicabilmente senza Napoli e Capodorlando. E poi che campionato rischiamo di vedere, secondo te, Werther? Vedi, da qualche anno, con tutti i lamenti che abbiamo anche elevato, poi quando si inizia a giocare, il campo è sempre la parte migliore di tutti. C'è chi sta sostenendo, il presidente di Siena l'ha sostenuto a Venezia la presentazione del campionato, l'ho letto in alcune interviste sia su quotidiani che su riviste periodiche. Lui sostiene che c'è in giro un pessimismo diffuso e colpevole, che sarà comunque un campionato bellissimo. Ora, i casi sono due. Il primo, quello un po' più l'interpretazione un po' più maligna, è che, essendo che tutti danno per scontato una cavalcata di Siena ancora più facile che negli anni passati, cerchi di sostenere il prodotto perché tu sai che se fai combattere Mike Tyson contro un peso leggero non c'è gloria nella vittoria e dunque probabilmente sostiene. Dall'altra parte è un campionato che presenta delle incognite, perché potrebbe fornire alcune sorprese, e anche qui opinione personalissima che può essere ampiamente condivisa, ognuno ha la propria. Io vedo per esempio la Virtus Bologna costruita in modo tale che potrebbe essere la sorpresa, potrebbe, se tutte le tessere del mosaico si incastrano alla perfezione, se tutto va al 100%, potrebbe essere la Milano della finale scudetto, quando, partita senza quella, diciamo, quella credito, poi tutto andò bene e via dicendo. L'altra squadra che molti danno per competitiva e che qualcuno dice che probabilmente si è rinforzata è Roma. La mia opinione personale è che Roma non si sia rinforzata. Sono d'accordo. Perché se tu perdi Ukic, Hawkins e Lorbeck, non mi dire chi hai preso. Io per prima cosa dico, è dura sostituirli. Io di certezze oggi non ne ho, perché poi ci sono giocatori come questo Jenkins, ragazzino che pare che abbia un talento smisurato, è solo semmai l'inesperienza, però l'inesperienza è l'unica cosa che si può comprare al mercato, il talento no, al mercato del gioco l'esperienza se ti fanno giocare la fai. Ecco, però l'unica cosa di partenza che so è che Becirovic non vale Hawkins, non vale Hawkins non come qualità tecniche, ma come qualità di carisma, di peso. Becirovic non è il giocatore come era Daryl Hawkins, in grado di rompere i giochi, di nel momento di difficoltà costruire da solo. È ovvio che a vantaggio di Roma e per la credibilità di Roma hanno un allenatore che in palestra lavora davvero e tanto, sia sotto il profilo, sotto sulla testa dei giocatori, che sulle gambe e sulle mani dei giocatori. E dunque probabilmente avrà cambiato completamente il modulo di gioco, perché anche sotto non hanno più un giocatore in grado di risolvere quando gli danno la palla come era l'Orbe. Ecco che torniamo, dunque abbiamo un campionato che domenica parte, che è quello della Lega 2. Tra poco avremo anche un ospite, ma Werther, tu come lo vedresti il futuro ideale per la Lega 2? A livello di costruzione, la Lega 2 è già un campionato professionistico, e quindi anche qui io sono tutto fuori che un americanologo, eppure io lo vedo come la Lega di sviluppo dell'NBA, certo. Tanto per essere semplici, per esempio con limitato a due extracomunitari. Come in effetti è. Questo va benissimo, e quindi con quel campionato intermedio tra la possibilità, insomma ragazzi, il problema è dare la possibilità ai giovani di stare sul campo. Se poi le istituzioni costruiscono un percorso progressivo dalla A di dilettantistica alla Lega 2 e la Serie 1, forse riusciamo in Lega 2, questo se Dio vuole, in Lega 2 si vede, e ho l'impressione si vedrà sempre di più, perché ad esempio nella tua città d'origine c'è Melli, questo ragazzino che è in rampa di lancio e che trova con Marcelletti, certo. trova campo. Insomma, certo. E in Lega 2, se Dio vuole, gli italiani forti e in grado di crescere li vedi. Non dimentichiamo il passaggio di Danilo Gallinari da questo campionato. Certo, certo. Ma è la strada vincente. Devo dire che senza che si sia mai approfondite le tematiche e i comportamenti da portare eventualmente ad esempio, già dall'anno scorso nel sentire comune tutti gli addetti ai lavori ammettevano che la Lega 2 e il presidente Renzi di Lega 2 avessero costituito una organizzazione efficiente, efficace, che ha prodotto anche realtà, ad esempio come quella di Ferrara che si affaccia alla Serie A. Voglio raccontarlo questo perché è importante, non solo presentando le sue chance tecniche, ma presentando un progetto che inserisce il basket che è l'attività sportiva di vertice a Ferrara, in un contesto sportivo. Lunedì, per esempio, presenteranno squadra di basket e il grande progetto Ferrara Terra e Acqua, cioè tutta la promozione sia dell'arte che del territorio del Delta. Ecco, allora, sicuramente c'è un fermento in Lega 2 che è stato superiore al prevalente immobilismo di Lega e Federazione per quanto riguarda il movimento di A. Per esempio, noi nel campionato di Lega 2, io e Flavio Pavesi, invece, interesse privato in atto pubblico, lo confesso, però c'è una squadra interessante che secondo me è il prototipo della squadra di Lega 2. Due bravi americani, un comunitario come Volcic che è comunque... Volcic è bravo, sì. Che certo. È un signor giocatore solido. Poi è un giocatore solido ed essenziale, quello che ci vuole. E poi ragazzi giovani, mediamente giovani, presi nel campionato di Serie B, grande fame, talento, vediamo se hanno i numeri per sfondare, al di là delle regole, al di là delle regole. Se hanno i numeri per sfondare, sfonderanno. Se non ce li hanno, torneranno... Ma questo per dire che secondo me la Lega 2, la squadra ideale di Lega 2, nel futuro dovrebbe essere così composta. Sì, soprattutto con una, tra l'altro, senza dimenticare che questo progetto è stato affidato ad un allenatore che con questo tipo di squadra è abituato a lavorare, che non è così secondario, perché se tu dai una squadra di giovani in mano a un allenatore che non è abituato a trattarli, è chiaro che rischi la retrocessione. È ovvio che a Pavia hanno fatto una scelta diversa, chiaramente condivisibile, probabilmente anche, se vogliamo, dettate da esigenze di budget, ma questo poi è un aspetto secondario. Però il progetto è affidare a una persona che li sa trattare i giovani e vediamo cosa fanno. Mentre comunque in giro per la Lega 2 ci sono altre, molte altre realtà, la maggioranza delle altre realtà, che vanno a cercare un americano di nome, che hanno comunque molti comunitari, eccetera eccetera. Secondo me non è questa la chiave per ristrutturare il campionato di Lega 2. Ma certo, le eccezioni ci sono, però per esempio andando io qualche volta a trovare mia figlia che abita ad Alessandria, mi è capitato di vedere giocare la Junior Casale. E devo dire che anche la Junior Casale, magari in maniera non così netta, con maggior mediazione, però ha praticato questo percorso, perché i vari Formenti, ha messo giocatori giovani. Pieric, esattamente. Pieric, il figlio di uno dei miei più grandi avversari, uno di quelli che incontravo stesso ruolo negli anni 70. Beh, chiusa la parentesi personale, abbastanza irrilevante. E anche durante l'estate ha concentrato lo sforzo maggiore sul giovane italiano, non tanto propagandato, ma di sicuro venire, come Andrea Ghiacci, che è stato poi l'unico che Danilo Gallinari ha citato come prossimo nell'NBA. Non lo so se perché sono particolarmente amici. Sfortunatissimo. Devo dire che si è rotto il ginocchio in prestagione. Quindi... Infatti, sfortunatissimo. Ma la sfortuna è una variabile indipendente da cui dipendono molti risultati. Ma questo non toglie nulla alla programmazione e alla progettazione di quella squadra. Visto che l'abbiamo chiamato, evocato e ne abbiamo parlato, facciamo appena in tempo a salutarlo Stefano Salieri, allenatore dell'Edime Spavia. Ciao Stefano, ciao coach. Ciao, buongiorno a tutti. Stavamo ora dicendo con Werther Pedrazzi che insomma vorremmo che la Lega 2 del futuro somigliasse alla tua squadra, cioè due bravi americani, un comunitario solido e utile e poi un pugno di italiani che hanno una gran fame e una gran voglia e anche del talento. Ma guarda, questo è un complimento, ma direi che soprattutto un complimento alla politica della società, che quest'anno ha fatto il primo anno di programmazione di un progetto giovani al quale sono stato chiamato a farne parte con grande onore. Però è una cosa affascinante, perché poi io ho sempre lavorato in questo modo anche in Serie B, e la cosa principale cui non si può farne meno è questo, cioè la Lega 2 deve essere un serbatoio, una rampa di lancio per tanti giovani che devono farsi esperienza ad alto livello, e ce ne sono tanti, perché Basta farli giocare, basta individuarli e soprattutto dare loro responsabilità. Basta individuarli e basta farli giocare, hai detto due cose certamente non poi così facile poi nella sostanza, perché altrimenti non avremmo i problemi che avremmo nella nostra pallacanestro. Ma la domanda che volevo farti è questa: voi avete avuto un precampionato molto brillante, la domanda è come si fa poi a dare a rendere questi giovani così consapevoli del fatto che hanno davvero le qualità per fare bene in un campionato e soprattutto in realtà che normalmente non li prendono molto in considerazione? Io adesso di questo non lo so, perché sono così, non posso rispondere bene a questa domanda. Io so che questo gruppo di ragazzi che ho io è un gruppo di giovani che hanno già esperienza, hanno avuto esperienze in Serie B importanti tutti. E la Serie B fatta in un certo modo è un campionato molto formativo, fatta in altri diventa così forse un campionato inutile. Io penso che questo gruppo di ragazzi chiamato a essere protagonista, ecco lì, possa avere dall'assunzione di responsabilità e soprattutto però integrato in un sistema di allenamenti di gioco che tende a valorizzare loro e a valorizzare il gruppo. Questa è la cosa principale per tirarli fuori. Grazie coach e buon lavoro. Noi siamo in chiusura di programma, ma tutti questi fili li riannoderemo venerdì prossimo. Tornerà con noi anche Dan Peterson, perché non può esserci palla spicchi senza grande danna. Io ringrazio Werther Pedrazzi per essere stato con noi e tornerai, vero? Tornerò sicuramente, grazie a tutti voi e buon lavoro naturalmente. E il campionato speriamo parta, grazie. Quella è l'incognita. Grazie Flavio Suardi, Gigi Borghi per il lavoro in redazione, Filippo Oreggi in regia. Buona giornata a tutti.